Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Oggi sarete con me, domani torna Sebastiano Barisoni. 349-238-6666 per i vostri sms e anche per i messaggi su WhatsApp. È una puntata particolare questa, non solo perché ci fermeremo alle 18 per lasciare spazio allo speciale realizzato ai colleghi della redazione su quello che è successo in Puglia, sullo scontro fra i due treni che ha provocato i numeri che abbiamo al momento parlano di 20 vittime e 30 feriti, però si continua a lavorare tra le lamiere. Ci sono queste foto impressionanti diffuse ai vigili del fuoco che mostrano dei treni letteralmente sbriciolati, almeno nelle prime carrozze. Quindi una puntata particolare per questo, perché ci interrompiamo prima, ma anche perché ovviamente continueremo ad aggiornarvi nel corso della trasmissione quando avremo notizie su questa vicenda. Del resto, appunto, una trasmissione che si occupa di economia, ma è anche una trasmissione giornalistica, è curata da giornalisti, quindi tutto questo non lo possiamo e non lo vogliamo ignorare, senza contare che poi a un certo punto dovremo anche riflettere sulle responsabilità di tutto questo. E spesso dietro a queste vicende ci sono anche, come sapete, delle questioni che hanno a che fare con l'economia, a partire dal fatto che molti di voi lo ricorderanno: l'incidente di Crevalcore nel 2005 alla Bolognina, quando si scontrarono due treni e morirono 17 persone. Anche allora era un binario unico, e quante grida di dolore ci furono dopo nel dire: beh, insomma, bisognava accelerare i lavori da questo punto di vista. Anche in questo caso abbiamo un incidente avvenuto su un binario unico. Un incidente avvenuto su un binario unico, su una ferrovia a questo punto vecchia, e che progettava di raddoppiare il binario con lavori che si prevedeva che finissero entro la fine del 2017. Parliamo proprio delle ferrovie del nord barese, qualcosa che evidentemente è arrivato troppo tardi. Il primo progetto è del 2007, poi sono arrivati i fondi europei nel 2012, dopodiché i primi espropri dei terreni a partire dal 2013, dopodiché si sarebbe dovuti partire quest'anno, e adesso chissà che cosa succederà, per finire nel 2017. Tutto troppo tardi. Comunque, vi aggiorneremo anche su questo, evidentemente, quando avremo delle notizie. I temi che affronteremo oggi invece sono fondamentalmente due. Uno è quello ormai quasi consueto delle banche italiane. Toccheremo due fronti: da una parte Unicredit, oggi l'insediamento del nuovo amministratore delegato Mustier, con questa cessione del 10% di Fineco. Unicredit che tra l'altro va molto bene in borsa oggi, più 13,24% in un quadro di mercato complessivamente molto positivo, più 2,7% per il FTSE MIB, più 2,6% per il FTSE OSHARE, con il resto d'Europa che va un po' peggio, perché Francoforte guadagna comunque l'1,33%, Parigi l'1,5% e Londra in calo dello 0,11%. Vanno bene tutte le banche. Chissà quanto hanno pesato su questo anche le dichiarazioni del ministro tedesco Schäuble, che dice che ci sono margini di intervento per le banche italiane. Il mercato evidentemente ha deciso di guardare a queste dichiarazioni come un'apertura positiva e non guardare alle improvvide dichiarazioni del ministro dell'economia della Repubblica Ceca Andrej Babis, che in corso di Ecofin dice il rischio delle banche italiane, su Twitter lo dice tra l'altro, qua siamo al delirio, il rischio per le banche italiane è peggio del rischio della Brexit. Ora magari ne sei anche convinto, però sono cose che comunque a mercato aperto non si dicono, per fortuna che è solamente il ministro delle finanze della Repubblica Ceca. Quindi banche, sia su questo fronte sia sul fronte Unicredit. E poi l'economia internazionale è intesa come le esportazioni italiane. Oggi è stato presentato il rapporto ICE-ISTAT, il trentesimo rapporto ICE 2016, l'Italia nell'economia internazionale, che fa un quadro sulle nostre esportazioni, parla anche dell'internazionalizzazione delle nostre imprese, quindi non solo le esportazioni ma quanto le nostre imprese vanno all'estero. Ne parleremo con una persona che ospitiamo richiamo che utilizziamo spesso in questi casi, che il professor Fabio Sdogati dell'Università del Politecnico di Milano, della Business School del Politecnico di Milano. Per il resto, mercati, ve l'ho detto, vanno molto bene in questo momento e si stanno rafforzando negli ultimi minuti, va male solamente Fineco, prevedibile, meno 0,96%, ricordati, meno 0,78% Moncler, meno 0,35%, giù di poco anche Campari, meno 0,28% Eterna, meno 0,12%, come si diceva, bene tutte le banche. Le notizie in breve di oggi. Registriamo un calo per l'oro dello 0,9% a $1,342 l'oncia e un rialzo per il prezzo del greggio anche piuttosto forte in questo momento. Il WTI, quello quotato a New York, con consegna d'agosto, più 2,37% a $45,8 al barile. Per quanto riguarda il Brent, il petrolio del Mare del Nord, quotato a Londra, più 2,64% a $47,4 al barile. Il fronte dell'economia internazionale, abbiamo il Fondo Monetario che questa notte ha parlato di parecchi paesi europei, tra cui l'Italia, ha parlato però, iniziamo dalla Francia, Fondo Monetario che prevede per la Francia una crescita dell'1,5% nel 2016, l'anno prossimo l'economia rallenterà salendo solo dell'1,25% ed è stata abbassata la stima. È un deficit francese previsto in calo nel 2017 al 3% dal 3,3% di quest'anno in rapporto al PIL naturalmente. Il mercato del lavoro, dice il Fondo Monetario Internazionale, resta un ostacolo alla crescita della Francia e dovrebbe essere al centro degli sforzi del governo per modernizzare l'economia. Vabbè. Ci arriva un po' in ritardo il Fondo Monetario Internazionale, eh? Cioè, più sforzi di beccarsi ore e ore, settimane di scioperi e scontri di piazza, il governo francese mi sembra non possa fare. Come dire, che li si condivida o no, cioè, Secondo il Fondo Monetario la Brexit pesa sulla crescita italiana, rivede al ribasso il Fondo Monetario le stime per il PIL 2016 a sotto l'1% e a circa l'1% nel 2017 rispetto a un più 1,1 e a un più 1,3 stimato in precedenza. Non buone notizie. L'economia italiana, dice comunque il fondo, sta recuperando gradualmente, le sfide strutturali restano significative. Il tasso di disoccupazione resterà alto all'11,4% nel 2016 e al 10,9% nel 2017. Le borse si diceva vanno bene oggi, una giornata decisamente positiva. A questo rimbalzo sono dedicati 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, che come sapete vanno in onda anche su RDS Radio Dimensione Suono, oggi a firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Plateroti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. L'uragano piano Brexit incombe ancora sull'Europa, le incertezze politiche sul futuro dell'Eurozona sono ancora alte, ma per i mercati finanziari sembra essere tornato il sereno, la manica è ancora aperta e il flusso di denaro che passa tra le piazze finanziarie, tra Londra, Francoforte, Parigi, New York e poi soprattutto verso l'Asia, è ritornato a correre veloce da una parte all'altra delle borse. Ma attenzione, il record segnato dall'indice Standard & Poor's, che anche oggi segna un nuovo primato, va preso con le dovute cautele. I record piacciono, ma facciamo attenzione agli altri indici. Non tutte le borse, soprattutto non tutti gli indici importanti e di riferimento sono in zona record o addirittura vicini a un guadagno. Pensate che il Nasdaq è ancora in ribasso del 4% sull'anno scorso e ribassi ancora forti sono presenti sugli indici che seguono le piccole e medie imprese. Come dire, c'è un rimbalzo, ma non è un'alta marea su cui salgono tutte le barche. Anche i titoli, per esempio i difensivi e le banche, sono i titoli maggiormente acquistati, ma anche dovuto al fatto che hanno perso di più degli altri nei mesi scorsi. Come dire, aspettare e vedere che cosa succede e soprattutto aspettare che si stabilizzi l'oro, che ancora insieme ai titoli di Stato rappresenta ancora il bene rifugio per eccellenza, un rifugio in cui il denaro continua a correre malgrado la corsa delle azioni. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Fronte bancario, alcune banche italiane probabilmente avranno bisogno di una ricapitalizzazione, così Mark Carney, il governatore della Bank of England, parlando al Parlamento inglese. Ha anche spiegato che l'esposizione delle banche britanniche verso gli istituti italiani problematici è modesta, al di sotto dell'1% del capitale complessivo. Ancora Dombrovskis, vicepresidente della Commissione europea. Valutiamo la protezione degli investitori retail e una soluzione che rispetti le regole. Merkel che dice: non vedo alcuno sviluppo verso una crisi, ci sono colloqui fra l'Italia e l'Europa, le questioni possono essere risolte bene. Schäuble che dice che ci sono margini di intervento. Il ministro dell'economia Padoan: c'è una percezione distorta del sistema bancario italiano in termini di numeri, di sofferenze, di ciò che è necessario capitalizzare. Il sistema resta solido, dice Padoan. Dice Padoan: in Europa non c'è preoccupazione, c'è curiosità su quello che si sta facendo sia a livello di mercato che di intervento pubblico. Ancora il Fondo Monetario sull'Italia, i crediti deteriorati sembrano stabilizzarsi su livelli elevati, dall'inizio della crisi sono triplicati a 360 miliardi di euro alla fine del 2015, attenzione, non si parla delle sofferenze, ossia dei crediti non più esigibili, perché da questa cifra il Fondo Monetario scorpora circa la metà, cioè sono circa 180 miliardi secondo il Fondo Monetario le sofferenze bancarie. Secondo la Banca Italia invece sono 200 miliardi. Anche qua, come si dice a Roma, famo a capisse, cioè troviamo per favore un numero preciso sul quale ci possiamo basare. E Unicredit, appunto, che chiude il collocamento del 10% di Fineco per 328 milioni. Ci arriveremo tra un attimo alle questioni delle banche, ma prima parliamo dell'Italia sui mercati internazionali. Qualcuno dice, io ci scrive via sms, io tutte queste aperture positive sulle banche da parte dell'Europa non le vedo. Devo dire che in realtà, quantomeno a livello di dichiarazioni, una certa rigidità che abbiamo sempre riscontrato nei tedeschi, almeno nelle dichiarazioni, tanto di Merkel quanto di Schäuble, io al momento non le vedo. vuoi perché magari, come ci stava dicendo Adriana Cerretelli ieri, si sta trattando un po' più sotto traccia, non senza dichiarazioni roboanti, ma andando negli uffici europei, parlando coi ministri, senza uscir fuori in conferenze stampa, e vuoi perché dall'altra parte anche la Germania ha qualche problema bancario. Anche sui problemi bancari della Germania arriveremo tra un attimo. Intanto, come promesso, vi aggiorniamo su quello che succede anche in Puglia, come giusto che sia. Abbiamo l'ultimo aggiornamento sul numero di vittime: 20 morti, oltre 50 feriti, considerando solo quelli che al momento risultano ricoverati in diversi ospedali. 35 sono i feriti attualmente ricoverati ad Andria, 5 dei quali in prognosi riservata. Ed è in prognosi riservata anche una sesta persona ricoverata a Barletta. Queste le notizie che arrivano dalla Puglia. Ovviamente vi aggiorneremo a partire dalle 18 con il GR e poi con lo speciale dalle 18 alle 18.30. Siamo al tema dell'internazionalizzazione delle imprese italiane. La presentazione del 30° rapporto ICE 2016, appunto l'Italia nell'economia internazionale. Abbiamo una crescita dell'internazionalizzazione dell'economia italiana nel 2015, con un aumento delle esportazioni di beni e servizi del 4,3%. Nell'ultimo triennio la quota sull'export mondiale si è assestata intorno al 2,8%. Un elemento interessante che sottolinea l'ICE nel suo rapporto è che il vero motore di tutto questo sono le piccole e medie imprese, che realizzano quasi la metà dei prodotti portati all'estero. Professor Fabio Sdogati, professore di economia internazionale al MIP, la Business School del Politecnico di Milano. Professor Sdogati, buonasera e benvenuto. Buonasera a lei, grazie. E bentornato dunque ai nostri microfoni. Allora, professore, viene da dire, per forza che esportiamo, perché per quanto poco ha tirato il mercato interno in questi anni, senza esportare saremmo letteralmente morti. Però, insomma, ecco, i dati mi sembrano positivi complessivamente. I dati sono complessivamente positivi, è vero, perché bisogna tener conto del fatto che il 2015 non è stato un anno facile sui mercati internazionali. C'è stata una contrazione importante degli scambi internazionali, c'è stata una ridirezione dei flussi di esportazione verso gli Stati Uniti. Le nostre imprese sostanzialmente hanno capito bene questa cosa e hanno sfruttato questa opportunità. Rimane, secondo me, a leggere il rapporto, un problema di dimensione, cioè che dice dica che sono le piccole e medie imprese che fanno poche fiamme. Per carità, c'è la libertà di parola e va bene, però voglio dire, noi abbiamo un totale di 214.000 imprese che esportano. Sì. Di queste 214.000, 134.000 sono microesportatori che hanno fatturato all'estero fino a 75.000 euro. Voglio dire, come si dice negli Stati Uniti, poca roba, dice lei, insomma. Ah sì, non è cosa su cui si scriva la mamma dicendo che si è avuto grande successo. E tanto è vero che quando andiamo a guardare la disaggregazione dei dati per dimensione di fatturato, noi vediamo che quelli che hanno esportato fra 75.000 e 5 milioni di euro hanno aumentato l'esportazione dell'1,4. Quelli che hanno esportato tra 5 milioni e 50 milioni hanno fatto più 3,1, e le imprese che hanno esportato più di 50 milioni hanno fatto quasi più 5. Allora, questa cosa che noi siamo venuti dicendo molto spesso, cioè questa necessità di imprese che sanno fare, che hanno il prodotto, che si sanno ormai muovere sul mercato mondiale, ma che debbono crescere. La crescita rimane l'obiettivo fondamentale, perché vediamo appunto che all'aumentare la dimensione aumenta la capacità di fatturazione all'estero. Anche perché professore, mi scusi, spesso quando hai un'impresa piccola ed esporti anche quote rilevanti del tuo fatturato, spesso lo fai verso uno, al massimo due mercati, e quindi sei esposto ad un rischio paese che è oggettivamente molto più forte, nel senso che nel momento nel quale invece esporti verso 10 paesi hai un rischio un po' più distribuito, e quindi finire gambe all'aria è più facile, ecco, per dirla brutalmente. Ma questo è sicuramente vero, L'abbiamo detto molte volte, noi in trasmissione, abbiamo bisogno di una presenza strutturata, abbiamo bisogno di imprese che crescono, imprese che diversificano il paese di esportazione e che diversificano le forme di esportazione. Io credo che noi tutti dobbiamo riflettere, la politica per prima, dobbiamo riflettere su questo numero, 214.000 esportatori su un totale di 4.500.000 di imprese. Per carità, poi dentro c'è anche il negozietto sotto casa, di quei 4.500.000, sì. Però sono ancora un po' pochi. E in particolare 134.000 sono imprese che esportano meno di 75.000 euro. Quindi dobbiamo lavorare per aiutare queste imprese a crescere. Questo è il problema fondamentale. Con la crescita verranno successi sempre maggiori. Sì. Tra l'altro, noi abbiamo ancora come principali mercati di sbocco Germania e Francia, che però ormai sono un mercato domestico, professore, no? Salvo drammi per l'Europa nei prossimi mesi, però diciamo sono sostanzialmente un mercato domestico. Ma questo è talmente vero che noi dal 1993 non chiamiamo più i flussi di merci verso Francia, Germania e il resto dell'Unione esportazioni e importazioni, ma le classifichiamo come vendite e acquisti. Quindi è esattamente così, cioè voglio dire, la differenza tra un'impresa piemontese che esporti a Düsseldorf o che esporti a Palermo non è che faccia tutta questa grande differenza, tutta questa grande difficoltà. C'è un problema di studiare con attenzione la prossima ridirezione dei flussi commerciali internazionali. Questo abbiamo visto che il rapporto lo dice chiaramente, il primo semestre 2016 non è così roseo, non è come il 2015. Quindi abbiamo avuto una contrazione delle esportazioni nel primo semestre, questo vuol dire che dobbiamo identificare piuttosto rapidamente, diciamo, la prossima area geografica di crescita importante, sì. Perché è chiaro che stiamo vivendo un'altra redirezione dei flussi commerciali. E secondo lei, professore, per carità, insomma, guardando così, quale potrebbe essere quest'area? Perché noi siamo ben posizionati negli Stati Uniti, anche storicamente se vogliamo, comunque terzo posto, anzi primo posto se teniamo fuori Francia e Germania, come si diceva, con una quota dell'8,7% delle nostre esportazioni. Gli Stati Uniti si è detto molto nell'ultimo anno, no? Gli Stati Uniti sono il mercato solido, loro crescono, vanno bene, ci fanno star più tranquilli perché abbiamo parlato a nastro dei BRICS negli anni scorsi e abbiamo visto come sono finiti, quindi quale può essere l'area? Sempre quella, il Nord America? Ma allora, io credo che una regola d'oro sia che ai ricchi si continua a vendere, quindi gli Stati Uniti devono rimanere un punto di attenzione centrale per i nostri esportatori, perché il reddito pro capite è alto, perché l'apprezzamento per il prodotto italiano, che sia macchina utensile o che sia cibo, è molto elevato. E quindi dobbiamo continuare. Non credo che la prossima ripresa forte verrà dagli Stati Uniti, credo che verrà dalla Cina e dal sud-est asiatico. Okay. A me piace espormi, quindi sì. Un giorno qualcuno mi rinfaccerà questa previsione, sicuramente. magari lo faremo direttamente noi, se le cose vanno male in Cina e sud-est asiatico la richiameremo, faremo risentire l'audio e lo teniamo religiosamente come archivio eventualmente per richiamare. Ma proprio ieri sera in un'iniziativa che abbiamo fatto al Politecnico per gli alunni del MIP ho fatto autocritica, perché avevo previsto con grande nonchalance che avrebbero vinto il Remain in Gran Bretagna. Ma la forse abbiamo sbagliato un po' tutti, comunque la ringrazio su quello, la ringrazio. Grazie professor Fabio Sdogati del Business School del Politecnico di Milano per essere stato con noi. Noi adesso ci fermiamo, c'è il meteo, poi ci ritroviamo, i mercati, poi facciamo il punto sulle banche. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo buonasera da Simone Spezia. Questa in realtà a questo punto la seconda parte di Focus Economia, perché come già si diceva, a partire dalle 18 ci sarà uno speciale di Radio 24 dedicato a quello che è successo in Puglia, a nord di Bari, dove si sono scontrati due treni. Le ultime notizie, gli ultimi aggiornamenti ci parlano di almeno 20 morti e almeno 50 feriti. Due treni appunto che viaggiavano su binario unico, due treni locali per quanto moderni, che si sono scontrati in un punto dove la velocità massima prevista era 100 km/h. È immaginabile che andassero esattamente a quella velocità, e ci sono queste immagini che ci mostrano uno sbriciolamento letteralmente dei vagoni. Qualcuno ci scrive a proposito di export, tema che abbiamo trattato poco fa. Dice: ma la piccola impresa occupa la nicchia dell'artigianato di qualità, se si espande deve passare a modalità di produzione industriali e si snatura, ci scrive Max. Allora, Max avrà pure ragione, però ha sentito i numeri che ci ha fornito Sdogati. C'è una quantità enorme di imprese che esporta meno di 75.000 euro l'anno. Ma i numeri non si fanno con questi, i numeri dell'export non si fanno in questo modo. E quindi l'artigianato va bene, artigianato di qualità, grande felicità per l'artigianato di qualità che esporta nel mondo e che porta le cose cesellate negli Stati Uniti, e però l'export del paese non lo fai in quel modo, lo fai coi grandi numeri, o almeno coi medi numeri, o con una produzione ultra specializzata però su settori che non sono quelli artigiani. Penso alla meccanica di precisione, la meccanica industriale, il biomedicale. Bene, bene. Passiamo ai mercati, va, che così commentiamo qualcosa di buono. Più 2,83% per il FTSE MIB, più 2,64% per il FTSE OSHARE, con le altre borse europee che vanno peggio. Francoforte più 1,5% comunque, più 1,3% comunque, Parigi più 1,5%, scusate, confusione tra Francoforte e Parigi. Londra meno 0,16%, l'America Standard & Poor's 500 più 0,75% aggiorna i massimi, Dow Jones più 0,66. Bene, anche qua Paolo Paronetto, Radio Corriere Sole 24 Ore. Buonasera, ciao. Buonasera a tutti, ciao a te. Allora, qua le banche, no? Sì, diciamo che oggi il tema di giornata è proprio quello delle banche. Le rassicurazioni arrivate dal ministro dell'economia Piercarlo Padoan sulla solidità del sistema italiano, unite alla convinzione che un accordo con l'Unione Europea sulla possibile messa in sicurezza preventiva di alcuni istituti, di alcuni casi critici, pensiamo ad esempio al Monte Paschi, lavorato dal fardello dei crediti in sofferenza, la convinzione che questo accordo possa essere vicino, oggi ha messo le ali a tutto il settore. E posso già dire che la migliore di giornata di gran lunga è stata Unicredit, che ha chiuso in rialzo del 13,45%, e qui il titolo ha beneficiato anche della notizia annunciata ieri della vendita del 10% del capitale della controllata FinecoBank, vendita che si è chiusa mattinata proprio prima dell'apertura dei mercati, e ha consentito al titolo anche di rafforzare il patrimonio. Sì. Naturalmente Fineco ne ha invece risentito. Ovviamente ha risentito, meno 1,22%. Di questo tra l'altro tratteremo tra un istante, lo faremo appunto con Marco Ferrando del Sole 24 Ore, Alessandro Merli più in generale sul tema delle banche. Unicredit appunto, come si diceva, chiude comunque un rialzo del 13,45%, ebbene anche UbiBanca più 10,8%, Popolare Emilia Romagna più 8,15%, Pop Milano più 7,6%, Mediobanca più 7,3%, Intesa San Paolo più 6,5%, Banco Popolare più 6,16%, e chi più ne ha più ne metta. RCS, Paolo. Sì, diciamo che RCS naturalmente rimane sotto i riflettori in attesa di capire quale potrà essere l'offerta vincente tra l'OPS, anzi l'OPAS lanciata da Urbano Cairo e l'OPA lanciata invece dalla cordata guidata dall'Università di Andrea Bonomi. Il titolo continua ad andare bene, si avvicina a quota 1 euro, che è il controvalore offerto dalla cordata di Bonomi. Oggi ha guadagnato lo 0,82% a 0,98 7 euro, naturalmente il mercato appunto si cerca di capire come andranno le adesioni. Nel frattempo ricordiamo che l'offerta di Cairo è un'offerta pubblica di acquisto e scambio, quindi la valutazione dipende anche dalla valutazione del titolo Cairo, anche questo sta salendo, ha guadagnato oggi il 2,07 a 4,542 euro. Questo per quanto riguarda RCS. Ci sono altri titoli da segnalare in questa giornata, Paolo? Ma al di là del settore finanziario segnalerei Leonardo Finmeccanica, bene anche lei, il 2,2% guadagnato ieri, le rassicurazioni dall'Inghilterra dell'amministratore delegato sul fatto che la Brexit non avrà impatti significativi sul business del gruppo, mentre al di fuori del FTSE MIB segnalerei le prese di beneficio su Italia Independent, ieri è salita molto sulla prospettiva di investimenti da parte del fondatore Lapo Elkan. Sì, c'è da segnalare tra l'altro una piccola notizia che non riguarda strettamente il mercato italiano, però visto che stiamo parlando di borsa, qualcuno, non so se qualcuno è già nella mania, ma negli store dei videogiochi dei vari smartphone non sono ancora arrivati ufficialmente in Italia, ma c'è questo videogioco che sta letteralmente spopolando, che è Pokémon Go, che è una specie di realtà virtuale, o meglio di possibilità di catturare i Pokémon in realtà virtuale, cioè giri per la strada e dove li trovi li catturi. Ebbene, da quando ha lanciato Pokémon Go, la Nintendo, che è l'azienda che lo ha realizzato, ora vale oltre 30 miliardi di dollari. In una settimana dal lancio le azioni hanno guadagnato il 50% addirittura, insomma una volta e mezzo quello che valevano prima di Pokémon Go, e non è nemmeno diffuso in tutto il pianeta, se non sbaglio è stato lanciato in Australia e Nuova Zelanda e tra poco arriverà in Italia. Questa è un'altra piccola notizia di mercato, però sono quelle cose che vi segnalano come alla fine basta poco per certe aziende e in questo nuovo modello di economia, come dire, per fare fortuna. Grazie Paolo Paronetto, Radio Corri, Il Sole 24 Ore, il traffico e poi le banche. Focus Economia. Ma come c'è già in Italia Pokémon Go? È da stamattina che lo cerco sull'App Store e non lo trovo. Me lo scrivete via SMS, boh, che vi devo dire? Vabbè, passiamo alle banche, va. Che sembrano essere invece il gioco preferito della dichiarazione europea di questi giorni, le banche italiane. Marco Ferrando, Il Sole 24 Ore, ciao. Ciao, buonasera a tutti. E dovremmo avere anche Alessandro Merli, corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. Alessandro, ciao, buonasera anche a te. Sì, buonasera. Eccolo. Allora Marco, oggi lo commentavamo prima, no? Durante la pausa, non si frena nessuno, dal ministro della Repubblica Ceca che dice le banche italiane sono più pericolose di Brexit, al governatore della Banca Centrale Britannica che dice che le banche italiane alcune avranno bisogno di ricapitalizzazione. Non, come si dice a Roma, nessuno sa tenersi un cece in bocca. Sì, purtroppo è una situazione che sta, come dire, crescendo, nel senso che ormai negli ultimi mesi, Alessandro lo sa bene, periodicamente si crea una situazione in cui l'Italia tratta sulle sue banche. E ormai evidentemente tutti sono così abituati a parlarne, e la stampa estera, devo dire, ci mette molto del suo, pensando all'ultima copertina dell'Economist, che alla fine veramente chiunque si sente autorizzato a esprimersi sullo stato di salute, sulle medicine necessarie, insomma, devo dire, fa anche un po' effetto e possiamo dire, credo che fa anche un po' male, nel senso che comunque ognuno, come anche peraltro oggi scrivevamo sul Sole, ha i suoi problemi in casa propria, quindi il fatto che si parli solo dei nostri fa un po' sorridere. Decisamente. A proposito di tutto questo, e a proposito di dichiarazioni, e a proposito di qualcuno che potrebbe avere qualche problema in casa sua, Alessandro Merli, oggi registriamo due dichiarazioni. quella di Angela Merkel, che dice: non vedo sviluppi verso una crisi. Per quel che riguarda l'Italia, ci sono colloqui intensi fra il governo italiano e la Commissione europea. Sono convinta che queste questioni, che lì sono decisive, possano essere risolte bene. Il ministro delle finanze Schäuble, che dice: ci sono i margini per intervenire sulle banche italiane, anche se resta aperta la questione degli aiuti di Stato. Insomma, ci sembra di registrare posizioni aperturiste, per così dire, da parte dei tedeschi. Alla Germania, nonostante l'accusiamo sempre delle peggiori grandezze, non è stata certo quella che ha tenuto la posizione più rigida su questa vicenda delle banche italiane. Può darsi che abbiano presente anche la situazione delle proprie banche, ma sicuramente sia la Merkel che Schäuble hanno in fondo fatto trapelare la possibilità di soluzioni all'interno delle regole attuali, che in fondo non si discostano molto da quello che ha detto per esempio il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, alla fine della settimana scorsa all'Assemblea dell'ABI. Quindi la Germania mi sembra abbastanza ben disposta, anche perché per ragioni politiche in questo momento, soprattutto dopo Brexit, non ha alcun interesse ad aprire anche un fronte con l'Italia, anzi potrebbe avere bisogno dell'Italia per diciamo rafforzare l'impianto europeo, visto che spesso si erano appoggiati sulla Gran Bretagna. Non potranno più farlo, l'asse con la Francia non funziona come funzionava una volta, quindi l'Italia potrebbe essere un alleato importante, non c'è nessuna volontà tedesca, insomma, di creare un comunismo. Allora Alessandro, io ti fermo innanzitutto perché proviamo a recuperare la linea con te, perché l'audio non era particolarmente buono, e proviamo a vedere se riusciamo a pescarti meglio, e magari vorrei capire da te che sponda invece eventualmente può trovare la Germania dall'Italia su questo tema, per quanto riguarda i suoi problemi, che non riguardano solamente Deutsche Bank, ne abbiamo parlato spesso, della quantità enorme di derivati che ha in pancia, ma anche delle casse locali che potrebbero aver bisogno di un intervento statale. Ma intanto con Marco Ferrando vorrei parlare invece di Unicredit, di questo primo giorno di Mustier da amministratore delegato, arrivato ieri e già ieri sera comunicato con l'annuncio della cessione del 10% di Fineco. Insomma, una decisione che evidentemente piace al mercato, come sempre quando il mercato trova qualcuno particolarmente deciso gli piace, poi valuterà, insomma. Sì, la banca è da mesi probabilmente che non conosceva un bilancio, una chiusura di giornata in doppia cifra, questo più 13 e oltre di oggi sicuramente è un risultato insolito, e quindi il mercato ha dimostrato di apprezzare il debutto di Mustier. Ieri ha ricevuto le deleghe, subito insieme alle deleghe il Consiglio ha approvato l'impianto di una revisione strategica del piano, che se vogliamo che è stata definita profonda. Quindi evidentemente si vuole prendere il toro per le corna, che è quello che di fatto si è imputato a Ghizzoni negli ultimi mesi. Lui aveva presentato, non dimentichiamo, una revisione del vecchio piano nell'autunno scorso, non è piaciuta al mercato, da allora è iniziata una lunga fase di stallo e soprattutto che poi è precipitata all'inizio di quest'anno. Oh, Marco, ti interrompo perché proprio in questi minuti viene battuta dalle agenzie della notizia che Unicredit ha avviato il collocamento nella stessa modalità di Fineco di un 10% della controllata polacca Bank Pekao. Questo secondo una nota di Unicredit, quindi altra mossa, diciamo così, no? Sì, perché come anche ha detto oggi in un messaggio mandato ai dipendenti, la priorità è il capitale. Il motivo per cui la banca in borsa non va bene da mesi, c'è il mercato che ritiene necessario un aumento che viene valutato tra i 5 e i 7 miliardi, quindi un grosso aumento. È chiaro che tutto ciò che tu collochi sul mercato, ciò che vendi, ti allontana la prospettiva di un aumento. Bisogna anche dire che oggi la banca capitalizza circa 15 miliardi in borsa, forse un pochino meno. E andare eventualmente sul mercato con un aumento delle proporzioni di cui si diceva non è facile, quindi non è inimmaginabile che di qui ai prossimi mesi magari si comincino a dare segnali forti sul mercato, vendere alcune cose che quindi consentano anche al titolo di stare su, di tornare a livelli maggiori, per poi una seconda fase che potrebbe avvenire tra l'autunno e verosimilmente l'inizio dell'anno prossimo per una ricapitalizzazione, perché ripeto, con questi valori oggi è difficile chiedere al mercato così tanti soldi. Sicuramente ha stupito, ed è forse quello appunto che mancava un po' alla banca da troppo tempo. Vediamo se abbiamo recuperato Alessandro Merli. Ci sei, Alessandro? Sì, io ci sono, mi sentivo anche prima, ma evidentemente voi no. Sì, no, ti sentivamo, ma non ti sentiamo benissimo. Ma forse evidentemente proprio un problema di cellulare. Proviamoci comunque. Alessandro, ti volevo coinvolgere sui temi, sui due fronti tedeschi, Deutsche Bank, e poi, se non erro, c'è anche una banca locale tedesca che ha qualche problema, no? Ma diciamo che Deutsche Bank è un problema non conclamato, ma che tende a riemergere. Ricorderete che a gennaio-febbraio il titolo Deutsche Bank, peraltro, è ai minimi storici anche adesso, e soprattutto le obbligazioni convertibili di Deutsche Bank avevano preso un bagno notevole sui mercati, perché addirittura si pensava che potesse non essere in grado di pagare le cedole su questi titoli. Poi quel problema è rientrato, però i mercati sanno due cose. Uno è che nel bilancio di Deutsche Bank ci sono molti derivati, e questo in Italia piace sottolinearlo ripetutamente, come se i derivati di Deutsche Bank risolvessero i problemi delle banche italiane. L'altra cosa è che secondo me va più a fondo, è che Deutsche Bank non ha da tempo una strategia convincente, cioè si è sempre basata molto sugli utili derivanti dall'investment banking, che poi ha creato una serie di problemi, di scandali finanziari molto gravi. Ha cercato di diversificare la retail comprando dal governo Postbank, cioè la banca postale, poi l'ha venduta, poi l'ha tagliato. Sì. La rete delle filiali, allora, insomma, il mercato non capisce bene né quale sia la strategia né da dove verranno i futuri utili di Deutsche Bank, quindi sì, questo è un po' il problema. L'altro problema, sì, quello di Bremer Landesbank, è un problema di tutte le Landesbank tedesche. Allora, Alessandro, però purtroppo dobbiamo veramente chiudere. Io ti ringrazio, grazie ad Alessandro Merli del Sole 24 Ore, così come a Marco Ferrando, a Pietro La Corte in regia, Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in assistenza in redazione. Chiude così oggi Focus Economia, linea al GR e poi allo speciale dedicato a quello che è successo in Puglia, lo scontro tra due treni.